Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia d'Italia in 24 minuti. Per Garibaldi, viva! 1863, una legge d'emergenza contro il brigantaggio. Articolo 1. Fino al 31 dicembre corrente anno, nelle province infestate dal brigantaggio e che tali saranno dichiarate con decreto reale, i componenti comitiva o banda armata composta almeno di 3 persone, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, e i loro complici saranno giudicati dai tribunali militari. Comincia così la legge 1409 del 15 agosto 1863, meglio conosciuta come legge Pica, ed è la durissima risposta dello Stato al problema del brigantaggio. Dopo le polemiche sulle omissioni dell'indagine parlamentare c'è stata la reazione del governo. Prima l'inasprimento della censura contro una ventina di giornali, in prevalenza giornali di area democratica, poi una legge eccezionale. Il 1 agosto il presidente Minghetti ha incaricato il deputato abruzzese Giuseppe Picca di studiarla. Appena 15 giorni dopo è arrivata la promulgazione da parte del re. Dopo la proclamazione dello stato d'assedio al sud, che è data un anno fa, e l'ordinanza militare sul blocco della transumanza che tanti danni ha fatto al mondo rurale, emanata in primavera, si è deciso di ricorrere alla legge d'emergenza. La questione centrale è l'utilizzo della pena di morte. E sì, perché finora, per coloro che non venivano catturati con le armi in mano e fucilati sul posto, si doveva ricorrere al tribunale ordinario, che dopo l'abolizione nel codice penale piemontese del 1859 della pena capitale per i reati politici poteva comminare al massimo l'ergastolo. Ora non più. Nelle province del sud sono stati sospesi i diritti costituzionali, introdotti i reati di brigantaggio e camorrismo, istituiti i tribunali militari ai quali passa la competenza in materia di questi reati. Chiunque venga trovato armato in un gruppo di almeno 3 persone può essere fucilato. Fucilazione anche per chi oppone resistenza, domicilio coatto e fino a un anno di reclusione per i vagabondi, le persone senza occupazione fissa, i sospetti manutengoli, i camorristi e i fiancheggiatori. Nelle province definite infette, cioè tutto il sud tranne la Sicilia, l'ultimo lembo di Calabria, Napoli e la parte meridionale della Puglia, sono stati istituiti i consigli inquisitori con il compito di stendere liste di sospetti. La legge infine ha anche un effetto retroattivo e in materia penale è una cosa inaudita. Nella discussione della legge qualche perplessità è stata sollevata. Il senatore Ubaldino Peruzzi l'ha definita la negazione di ogni libertà politica. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.